Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Depenalizzazione di falso in bilancio, dell'emissione di fatture false, della distruzione di documenti contabili. Tutto questo per recuperare qualcuno dei tantissimi miliardi nascosti all'erario? Quelli che poi mancano a scuole e ospedali? Intanto i furbi e i mafiosi brindano alla faccia dei disoccupati e della crisi. A questo punto, perché non chiudiamo la Guardia di Finanza? Tanto non serve più a nulla e risparmieremo certamente molti più soldi. Pazienza, se questo causerà altri disoccupati. La soluzione per loro è la stessa che è stata suggerita ai terremotati dopo il sisma. Fate finta di essere in vacanza. Ma cosa deve fare ancora il povero Silvio per dimostrare di essere proprio cattivo cattivo? Vittorio. Vorrei condividere con voi una riflessione forse un po' trasversale, ma non così folle, credo. Senza nemmeno essere di grana tanto grossa, possiamo definire nella medesima area di referenza, anche commerciale, l'Espresso, La Repubblica, Feltrinelli, Ricordi Media, case editrici, punti vendita, cultura, informazione e intrattenimento. Già da alcuni anni Feltrinelli ha centralizzato gli acquisti per tutte le oltre 100 librerie a marchio. Significa che da un ufficio in qualche palazzina si decide quali libri tenere nelle librerie e quali non tenere, per tutte le librerie in tutta Italia. Ma significa anche che se un cliente cerca un libro che non rientra tra quelli scelti da Feltrinelli, molto probabilmente si sentirà rispondere che il libro non è più disponibile, è esaurito o è introvabile. Mentre invece magari una libreria fuori dal loro circuito, lo stesso libro lo ha sullo scaffale o può ordinarlo normalmente. Anche in una città davvero ricca di librerie come la mia Bologna, Feltrinelli è comunque il riferimento per tantissimi lettori di libri, così pure come Ricordi Media Store lo è per la musica. Inoltre, se ho ben capito, Feltrinelli è appena entrato o sta entrando anche nel fondamentale settore della distribuzione. E così la selezione sugli editori e sulle opere sarà fatta anche per quanto riguarda la disponibilità verso le piccole librerie, probabilmente a scapito di queste e di tantissimi piccoli editori. Quindi, di quale libertà di informazione, cultura, serenità parlano gli appartenenti al mondo referenziale che gira intorno a Feltrinelli e al suo circuito editoriale? Antonio, Bologna. Egregio direttore, secondo me in Italia c'è tutta la libertà di stampa possibile e immaginabile. Dipende solo da dove e quando. La libertà di stampa in Italia è inversamente proporzionale alla capacità di influenzare l'opinione pubblica. Sui giornali e alla radio si può scrivere e dire qualsiasi cosa. Esistono trasmissioni e giornali di ogni orientamento. Peccato però che l'80% degli italiani si informi solo attraverso la televisione. Probabilmente chi legge gli articoli di Travaglio sull'Unità o ascolta Radio Popolare rappresenta un'insignificante minoranza e comunque non modifica le sue idee e il suo voto. Questi mezzi sono irrilevanti ai fini della formazione dell'opinione pubblica. Non sono in grado di spostare un solo voto. Qualche fastidio al nostro presidente lo hanno dato solo i due grandi giornali, il Corriere e la Repubblica, proprio per la loro grande tiratura, che peraltro è ancora irrilevante rispetto alla vastità dell'elettorato. Dove invece non si può dire ciò che si vuole è in TV, soprattutto in prima e seconda serata. In altri orari, con una certa moderazione, qualcosa si può dire. I grandi attacchi hanno sempre riguardato giornalisti che hanno portato le loro critiche in televisione e magari in prima serata. Il caso più celebre è Biagi, il cui programma Il Fatto, in onda alle 20.30 su Rai 1 appena dopo il TG1, realizzava i massimi ascolti. Ora non resta che normalizzare il TG e poche trasmissioni di Rai 3. E infatti le polemiche riguardano solo quella rete, che ancora sfugge al controllo. Il resto della televisione italiana, pubblica e privata, non costituisce un problema per il nostro presidente. Penso di non dover spiegare il perché. Risultato? Mediamente chi legge i giornali o ascolta la radio, compresa Radio 24, cui sono grato, sa più cose e diverse rispetto a chi si limita alla televisione. Sarebbe interessante condurre una seria ricerca in tal senso. Claudio, ricercatore. Più che chiedersi se in Italia ci sia libertà di stampa, e c'è, e come, tormentone e sondaggio del momento in questo provincialissimo paese, io chiederei se, al contrario, ci sia libertà di lettura. Visto che, o di qui o di là, tutta la stampa è schierata e solo qualche editorialista liberal si distingue con esemplare indipendenza dal magma partigiano. Non per nulla sempre meno gente, arcistufa, legge la carta stampata. E mi chiederei anche se ci sia libertà di ascolto TV, visto che le TV sono per lo più o comizi o, a parer mio, circenses per poveri di spirito. E per di più, per quel che riguarda la sola RAI, tassata a pagamento. Mazziati e cornuti, non mi vengano a raccontare che questo è il servizio pubblico di cui ci si riempie la bocca. Carlo. Gentile Radio 24, nei giorni scorsi sono atterrata a Fiumicino in transito da Istanbul. L'aeroporto è lurido, le moquette sono tutte macchiate e puzzano, idem per le seggiole. Nel bagno delle donne del Terminal C le porte non si chiudono, non c'è carta igienica, la macchina per gli asciugamani anteguerra non funziona. Niente sapone nel portasapone, comunque rotto. Il cestino letteralmente trabocca di spazzature varie che non descrivo. Un carrello per le pulizie abbandonato all'ingresso aggiunge al danno la beffa. So che può sembrare retorica, ma a Istanbul ho trovato bagni perfetti dappertutto, luoghi turistici, bar, per non parlare dell'aeroporto Atatürk, che è nuovissimo e perfettamente in ordine. Mi sono veramente vergognata del mio paese. Ieri ho scritto ad Aeroporti di Roma attraverso il sito, una corsa ad ostacoli, e mi è arrivata una risposta automatica che, cito testuale, dice che il miglioramento della pulizia in aeroporto è uno degli obiettivi per il 2004. Ecco perché ho trovato sporco. Oramai siamo nel 2009. Grazie, Livia. Gentile direttore, in Germania esiste la seguente parola: Rindfleischetikettierung über Vakuumsaufgaben übertragung. Esattamente la parola significa legge per la ripartizione di compiti sul controllo delle etichettature della carne bovina. Ora, io mi chiedo, e va bene la legge sulle etichettature, e va bene la legge sul controllo delle etichettature, ma fare una legge sulla ripartizione dei compiti nel controllo delle etichettature mi sembra veramente troppo. Ma com'è pensabile che in questo modo l'Europa potrà competere con la Cina o con la Russia, o persino con il Brasile e India? Forse non c'è bisogno di esperti politologi per scoprire come mai qualche giorno fa in Germania abbiano vinto i liberali. Marcello. Gentile Radio 24. L'Italia ha oltre 1000 condanne dall'Unione Europea in materia di gestione del territorio, compresi gli ambiti della concessione di opere edilizie, espropri e vessazioni varie, contro le poche decine o unità delle altre nazioni europee. È sempre la solita storia, leggi confuse e poco trasparenti, impossibilità di raggiungere un'equilibrata compensazione degli interessi tra pubblico e privato, strumenti urbanistici importanti usati in tutta l'Europa, mentre in Italia non trovano spazio, perequazione urbanistica, credito edilizio, eccetera. Perché lo toglierebbero alle clientele milionarie dei partiti e di questa classe politica sempre più affamata di soldi e potere. Siamo una democrazia incompiuta, sconquassata dal potere clientelare di questo o quell'altro gruppo di potere. Il diritto non si trova in questo paese. Radames. Gentile direttore, devo confessare che il comportamento del presidente Barack Obama, forse comprensibile per alcuni, è stato per me una delusione. Mi riferisco alla sua decisione di non incontrare il Dalai Lama in visita a Washington. Obama dovrà recarsi in Cina in novembre e non vuole incrinare i rapporti tra gli Stati Uniti e il Paese Rosso. La Cina, che è ben nota per il mancato rispetto dei diritti umani, è un po' meno nota per essere il maggior finanziatore del debito pubblico americano. Vanno a quel paese tutti i principi morali, come troppo spesso accade, per non urtare la sensibilità dei cinesi, i quali non amano tanto i leader spirituali dei buddhisti e nemmeno i paesi che lo ospitano. Se la nuova politica degli Stati Uniti è improntata su simili principi, allora dovremo aspettarci che Obama rifiuti un incontro con Israele per non fare un dispetto all'Iran. È questo che l'America voleva dal suo giovane presidente? Marco. Lettera aperta al Ministro per la Semplificazione. Caro Ministro, il decreto per la regolarizzazione di colf e badanti avrebbe potuto essere un'occasione unica per dimostrare l'utilità del suo Ministero. dopo aver raccolto decine di articoli di giornale, ascoltato tutte le trasmissioni di approfondimento, passato ore sul web a navigare tra i siti più attendibili, telefonato ai vari patronati, presentato il modulo F24 e soprattutto pagato 500 euro, ho ancora un sacco di dubbi ai quali nessuno ha dato ancora una risposta certa. Per esempio, circa il nuovo versamento, che oscilla tra gli 80 e i 200 euro. Come si deve procedere? Questa è la trafila che ha compiuto una persona adulta che ha dimestichezza con il computer e internet. Ma mi creda, ministro, sono tantissime le persone anziane o con problemi che non hanno nessuno che le aiuta. Allora, perché non semplificare? La mia modesta ricetta. Il comune dovrebbe essere il solo ente preposto alla stesura e presentazione della pratica di regolarizzazione. Se non ci fosse personale da dedicare a questa attività, si potrebbero utilizzare i lavoratori della scuola, che d'estate sono sottooccupati. È quello che si chiama utilizzo intelligente delle risorse. Due giornate di corso sarebbero più che sufficienti per formarli. Allo sportello si dovrebbero recare sia l'interessato all'assunzione che l'aspirante colf badante. Qui, in mezz'ora al massimo, si farebbe tutto. L'addetto compilerebbe i moduli via internet, completi delle foto digitali e delle impronte dei richiedenti, che versati i 500 euro se ne tornerebbero a casa, certi di aver fatto tutto. Al Ministero dell'Interno arriverebbe tutto il dossier completo. I vantaggi. Un solo sportello, informazioni disponibili subito in rete, lavoro per eventuali precari, costo zero, un PC connesso c'è in tutti i comuni, cittadini soddisfatti. Io non credo, non voglio credere, che al Ministero della Semplificazione abbiano bisogno dei suggerimenti della gente comune, ma visti i risultati, viene da pensarlo. Elena. Caro direttore, sono un ragazzo di 38 anni. Lavoro in un'azienda da 15 anni con uno stipendio, a mio avviso, normale, 1.500 euro. Essendo dipendente pago tutte le tasse e quando sono costretto a fare dei lavori chiedo la fattura. Cerco di rispettare gli altri e di informarmi sulla politica, su chi ci governa e sull'opposizione. Ci sono però leggi che non fanno altro che peggiorare i nostri diritti a vantaggio dei furbi. Se riprendo una persona che permette al suo cane di fare i bisogni per strada, rischio di essere offeso. Molta gente è maleducata, ma tanto ha sempre ragione perché rappresenta la maggioranza del paese. In Svizzera, se sbaglio a gettare la spazzatura, vengo immediatamente rimproverato da qualcuno. In Danimarca, se giro in bici e non rispetto i pedoni o i segnali stradali, sento qualcuno che mi suona il campanello e mi rimprovera. Educatamente, ma mi rimprovera. Noi viviamo in un paese di evasori fiscali. Cosa posso fare per cambiare le cose? Sicuramente educherò mio figlio alla legalità, al rispetto delle regole e delle altre persone. Ma se saremo in pochi a farlo, mio figlio si ritroverà con i miei stessi problemi. I miei genitori erano dipendenti statali. Non avevano spese di telefonino, TV satellitare, ADSL, settimane bianche o macchina nuova da cambiare ogni 3 anni. E così riuscivano a risparmiare. Compravano se serviva e se avevano i soldi. Avevano certo meno tentazioni di noi, è vero, ma sono sopravvissuti lo stesso. Ebbene, ora la gente non risparmia, ma si lamenta perché è senza soldi o perché ha il mutuo da pagare. Ma la favola della cicala e della formica non si racconta più? Luca. Caro Luca, lei pone due problemi altrettanto giusti e importanti quanto difficili da affrontare. Da una parte, l'esigenza di legalità, di rispetto delle regole, non solo delle leggi, ma anche delle regole del vivere civile, di quello che una volta si chiamava galateo. Dall'altra, il richiamo alla sobrietà, ad essere soddisfatti di quanto si può avere, a non cercare nei soldi e nei consumi quello che i soldi e i consumi non possono dare. Si tratta di richiami che partono dall'amarezza del constatare che la realtà italiana non solo per molti aspetti non risponde a questi criteri, ma soprattutto sembra più scivolare verso una dimensione di conflitto, di aggressività, di arrabbiata contesa tra le persone. E la politica, purtroppo, non offre certo buoni esempi. Nei comportamenti personali, ma soprattutto in quell'interpretazione perversa del bipolarismo, secondo cui deve esserci sempre e comunque uno contro l'altro, il buono da una parte e il male dall'altra. Abbiamo invece bisogno di recuperare quella dimensione della fraternità che sembra ormai esclusa dai rapporti politici e sociali. Gli esempi positivi, per fortuna, in questa direzione ci sono e sono tanti, ma sono più silenziosi e discreti, soprattutto rispetto al grande rumore degli altri.